For those, it will be a revision, but for others, it may be also an introduction. Per alcuni di voi sarà probabilmente un ripasso, però per altri questo discorso potrebbe essere un'introduzione. So we have to really discuss now what the Buddha meant by the hindrances. Quindi adesso dobbiamo discutere o capire cosa intendesse esattamente il Buddha quando parlava degli ostacoli. So remember, the whole of the Buddha's psychology is concerned with bringing an end to suffering. Ricordate che tutta la psicologia buddista ha a che vedere con portare a termine la sofferenza, superare la sofferenza. This does not put a, this does not mean an end to physical pain. Eh? Questo non significa portare a termine, diciamo, eliminare la sofferenza fisica. He himself died a little painfully from gastroenteritis. Il Buddha stesso è morto con forti dolori dovuti a una gastroenterite. But what we mean by the end of suffering is both an attainment of a level of a of a different unconditioned awareness. Ma quello che intendiamo con la fine della sofferenza è un raggiungimento di uno stato incondizionato, di una consapevolezza incondizionata. Sì. But when this expresses itself in the human form, it manifests as one of the great virtues. Ma quando questa si manifesta sotto forma umana, si manifesta come una delle grandi virtù. So love, compassion, joy, peacefulness, etc. L'amore, la compassione, la gioia, la pace, eccetera. Mm. So in the Eightfold Path, it always begins with this right understanding. Quindi nel nobile ottuplice sentiero si comincia sempre con questa retta comprensione. Which is not just a simple understanding about our daily life psychology. Che non significa una retta comprensione della nostra psicologia ordinaria di tutti i giorni, but also the attainment of this, awareness. Ma anche proprio il raggiungimento di questo tipo di consapevolezza. And this naturally begins to translate into attitudes, the second of the path. Naturalmente si trasforma poi in atteggiamenti, in attitudini, e questo corrisponde al secondo, alla seconda parte del sentiero, del ottuplice sentiero. And then it expresses itself in the way we think, the way we speak, and the way we act. E poi si esprime anche nel modo in cui pensiamo, nel modo in cui parliamo, nel modo in cui agiamo. And through our livelihood. E attraverso anche la scelta dei nostri mezzi di sussistenza. So the whole process becomes systemic, you see. Quindi tutto il processo diventa parte del nostro sistema. And it all begins by accessing this level of awareness within us. E tutto comincia proprio raggiungendo questo o accedendo a questo livello di consapevolezza dentro di noi. That's why it's so important for us to really experience and be very clear as to the observer, the feeler, the one who's experiencing. Per questo è molto importante avere molto chiaro, chiara questa esperienza del colui o colei che fa l'esperienza o che osserva o che sente. Who experiences? Okay. Experiences. O che esperisce, che sperimenta. And if that's not clear to you, then the practice will hopefully make it very clear to you in time. Se questo per voi non è ancora chiaro, si spera che con il tempo e la pratica lo diventerà. Now that's the process of liberation, you might say. Quindi possiamo dire che questo è il processo della liberazione. But it must run concurrently with the process of purification. Ma questo deve andare avanti simultaneamente, parallelamente a un processo di purificazione. This is exemplified in the Buddha's own process of enlightenment. E questo lo possiamo vedere anche nel processo di illuminazione del Buddha stesso. After his awakening, there were three knowledges came to him. dopo il suo risveglio, ci sono state tre conoscenze che lui ha acquisito. Sì, the first one was that he was free of all defilements. La prima era che sì, era libero da tutti i tipi di inquinanti mentali. And the second one was that because he remembered all his past lives, he realized that the key factor was always an ethical decisions. E poi la seconda conoscenza è attraverso così la visione di tutte le sue vite passate. Lui ha capito che qualunque decisione era basata su un fattore etico. And then he saw other beings moving from realm to realm, and the deciding factor was their ethical decisions. E poi ha visto tutti gli esseri viventi che passavano da una forma di esistenza all'altra, e anche qui ha visto che questo passaggio era dovuto al loro comportamento etico. Just as an aside, this was also happening in the Middle East with Moses. Per inciso, anche tutto questo stava succedendo nel Medio Oriente con Mosè. Who expressed it in the Ten Commandments. E lui lo ha espresso nei 10 comandamenti. So it was a great shift over different populations of the earth, where there was a realization that what led us towards happiness was ethical decisions. E quindi c'è stato questo grande cambiamento in molte popolazioni del mondo che ha fatto sì che si rendessero conto che quello che poteva portare alla felicità dipendeva da decisioni etiche. So it's known as the axial age, eh? I think many people know that. È conosciuta come l'età del axial. Axel? Exil. Ah, dell'esil. I'm sorry. Not important. Non è scusate. Not important. Qualcuno lo sa in italiano? Yes. Cosa questa epoca? Well, it's the same age as Lao Tzu, Socrates, Moses, the Buddha and the Upanishads. Sì, quindi è questa epoca in cui contemporaneamente ci sono stati tutti questi grandi pensatori, queste correnti filosofiche. Quindi ha un nome che però in questo momento non conosco. We can finish with the aside. Chiudiamo la parentesi, questo era un inciso. So now, this meant that our unhappiness is related to our ethical decisions. Quindi questo significa che la nostra infelicità è collegata con le nostre decisioni etiche. So the first thing that we have to do in our meditation is to allow the products of past unwholesome ethical decisions to burn out. Quindi quello che dobbiamo fare nella nostra meditazione è permettere che i prodotti di tutte le nostre azioni non etiche passate possano in qualche modo esaurirsi. Now, when we say ethical, we must make a distinction between that and moral. Allora, quando parliamo di etica, dobbiamo fare una distinzione tra etica e morale. What I mean by moral is, you know, not to kill, steal. Very obvious bad things. Quando parlo di morale intendo per esempio il non uccidere, il non rubare, quelle cose che normalmente tutti sanno che sono cose cattive. But ethical is much more subtle. Ma quando parliamo di etica questo è molto più sottile. Because here we're talking about our relationship not only to the world out there but to ourselves. Perché qui stiamo parlando della nostra relazione non solo con il mondo là fuori, ma anche con noi stessi. And this takes us right down to the root of our problem with the question of who am I. E questo ci porta proprio alla radice del problema, cioè la questione del chi sono io? Yeah, or what am I? O cosa sono? Now, the initial mistake of identifying with this psychophysical organism. Quindi questo errore iniziale, che è quello che ci fa identificare con questo organismo psicofisico. Remember, creates three attitudes. Ricordate che crea tre tipi di atteggiamenti. The attitude of acquisitiveness to make us feel safe. Quello della del voler acquisire più possibile per farci sentire al sicuro. And in order to enjoy life. E per goderci la vita. The aversion to try and get rid of anything which undermines our safety. Oppure l'avversione, cioè liberarsi di qualunque cosa che possa intaccare la nostra sicurezza. And of course the fear, the flight from whatever is overpowering us. E ovviamente la paura, cioè la fuga da qualunque cosa che sentiamo che può avere sopravvento. Ah, so when we talk about ethics, we're not talking about gross moral misbehavior only. Quindi quando parliamo di etica non parliamo solo di questi comportamenti, come dire, non salutari, morali, grossolani. It becomes an extremely subtle a subtle expression through our relationships, even with stones. E quindi è una cosa molto sottile, a che ha a vedere appunto con le nostre relazioni, persino con le pietre. So that's what we mean by ethics in the Buddha's understanding. E quindi, secondo il pensiero buddista, è questo che noi intendiamo con etica. So when we sit, what comes up for us? Quindi quando ci sediamo, cos'è che viene fuori? There are all those things to do with our desires, what makes us happy. Tutte quelle cose che hanno a che vedere con i nostri desideri, tutto ciò che ci rende felici. All our angers and negative states. Le nostre rabbie, i nostri stati negativi. Depression, anxiety. Depressione, ansia. All the sleepiness and dullness and sleepiness laziness. And dullness. Sloth and torpore. Tutta la nostra sonnolenza, la nostra pigrizia, il torpore. All the restlessness that's caused just by being restless. Tutta l'irrequietezza che è causata dal semplice essere irrequieti. And here the Buddha puts also things like guilt and shame and remorse. E in questa categoria il Buddha mette anche le cose come la vergogna, il rimorso, il senso di colpa. And doubt, a particular type of doubt. Skeptical doubt. È il dubbio, un particolare tipo di dubbio, il dubbio scettico. If we go through these and just see where, you know, what we have to do and be clear about our skills in order to make the use of them. E quindi adesso li vediamo uno per uno, vediamo come gestirli in maniera funzionale, abile, cioè come farne buon uso. Because we have to see them as teachers. Perché noi dobbiamo vederli, questi cosiddetti ostacoli, come dei maestri. So the first one is when the mind is caught up in desire. Il primo è quando la mente è come catturata, cioè presa dal desiderio. So it can be anything, can't it? It can be a sudden desire for biscuits, for instance. Può essere qualunque cosa, può essere un improvviso desiderio di biscotti. But it can be an all-consuming desire to become rich and powerful. Oppure un bisogno consumistico, diciamo, di diventare ricco e potente. Or famous as an artist or presently as a footballer. Oppure famoso come un artista oppure un calciatore. I've spent many hours scoring goals on the world stage. Io ho passato delle ore a segnare dei gol sul palcoscenico della vita, non del mondo. I spent hours saving the world. E ho passato delle ore a salvare il mondo. So we can get caught up in these fantasies in the mind. Possiamo diventare proprio presi, catturati da queste fantasie che ci creiamo nella mente. And some of them are not particularly evil. They're driven by good intentions. Alcune non sono poi malvagie, cioè sono scaturiscono da buone intenzioni. But they're all fantasy. Sono comunque fantasie. Complete waste of time. Assolutamente una perdita di tempo. Ah, And it creates this sort of false happiness, so that when you come out there's a feeling of disappointment, of emptiness. E creano questa falsa felicità, e quindi quando ne usciamo abbiamo questo senso di delusione, di infelicità, di vuoto, un senso di vuoto. And if we really get lost in our fantasies, then life itself becomes meaningless. E se ci perdiamo in queste fantasie, la vita stessa diventa insignificante. We can actually lose contact with reality in many ways. In alcuni casi possiamo anche perdere il contatto con la realtà. Now, I had somebody come on retreat, and he suffered a little bit from manic depression. Ho avuto una persona che è venuta a un ritiro che soffriva di una sindrome maniaco-depressiva. He told me that he climbed mountains. Allora mi ha raccontato che lui scalava le montagne. So I said, what mountains have you climbed? Oh, he said, well, I haven't actually climbed a mountain. Allora io gli ho chiesto, ma che montagne hai scalato? E lui mi ha detto, ma effettivamente non le ho proprio scalate. No, he would imagine himself going up a mountain in every of the smallest detail till he got to the top. Lui si immaginava se stesso mentre saliva sulla montagna, ma in tutti i minimi dettagli, fino a quando non arrivava in cima. So when he got to the top, he didn't feel he had to climb it. E quindi poi quando arrivava in cima non sentiva il bisogno di scalare la montagna. This is how bad it can get. E quindi può arrivare a questi livelli. So once we realize that this the fantasizing mind is doing us harm, then we're very quick to come away from it. Quando ci rendiamo conto che questa mente che fantastica ci sta facendo del male, allora molto velocemente ci allontaniamo. Now that doesn't mean to say that we cannot use the imagination in a proper way, eh? Questo non significa che non possiamo utilizzare la nostra immaginazione in un modo giusto. All this technology, all this amazing technology, all happened in somebody's mind. Tutta questa incredibile tecnologia che abbiamo è successa, è stata creata nella mente di qualcuno. All the art that we see, you know, music, art, whatever it is, it all began in somebody's mind. Tutta l'arte che vediamo, la musica, è nata nella mente di qualcuno. And when the Buddha gives his teaching, he always uses a rational approach, but then he always gives some sort of metaphor to explain. Il Buddha nei suoi insegnamenti usa sempre un approccio molto razionale, pragmatico, però poi dà anche una metafora. The Buddha says that When we are purified, everything is given back to us. Il Buddha ci dice che quando siamo purificati, tutto ci torna indietro. All our ability to think clearly, to imagine, to create, is all given back. Quindi tutta la nostra abilità di pensare chiaramente, di immaginare, di creare, tutto ci viene restituito. He's clear that the only things that are destroyed are greed, aversion, and delusion. È molto chiaro sul fatto che le uniche cose che vengono distrutte sono la brama, l'avversione e l'illusione. So we're not trying to stop the mind imagining, it's just that when we want to think about something or imagine something, then it must be purposeful and ethical. Quindi non è che vogliamo far sì che la mente non immagini più, ma quando lo fa, quando usiamo l'immaginazione, vogliamo che essa abbia uno scopo e che sia etico. So, as soon as we see the mind in meditation, because in meditation we want to stop the mind, so that be clear about that. We don't want to think. Quindi, quando siamo in meditazione, è che sia chiaro, noi in meditazione vogliamo fermare la mente, questo sia chiaro. If in your meditation you want to do some deliberate imagining or thinking, then you must say to yourself, this is not vipassana. Quindi se vi sedete in meditazione, poi decidete di cominciare a pensare intenzionalmente o immaginare, potete farlo, ma ditevi, questa non è vipassana. So when we come off that fantasy, you see, we come back into the body and we can see if we can contact the excitement in the body, some form of energy, quindi, excited energy. Quando riusciamo a sganciarci da queste immaginazioni, queste fantasie, e torniamo nel corpo, dobbiamo cercare di percepire questa forma di energia, di eccitazione. And stay with it until it begins to evaporate, you see. E ci stiamo assieme fino a quando comincia a evaporare. There's a lot of energy there, so you have to keep your attention into it. C'è molta energia lì, quindi bisogna tenere l'attenzione lì dentro. And that's the purpose of the noting, because the noting will stop the mind from thinking about something. E questo è lo scopo e l'utilità di questa nota mentale, perché questo impedisce alla mente di continuare nella sua proliferazione. And there must be somewhere some deliberate resolution not to go there again. E ci deve essere poi a un certo punto proprio una decisione intenzionale, un impegno a non andare in quella direzione. So you come off the mind, you know, fantasy, you say no. Quindi vi sganciate dalla mente, no? E dite fantasia o immaginazione. Yeah. And then you come into the body and you feel it and you feel it and you wait for it to evaporate. E poi tornate nel corpo, lo sentite e aspettate che evapori. So then you realize that the mind is a way the heart expresses it indulges itself. E quindi scoprirete che questo è un modo in cui il cuore si lascia andare, ecco, queste fantasie, queste immaginazioni. The way emotions grow is through fantasies. È il modo in cui le emozioni crescono proprio attraverso queste fantasie. So when you come back and you're with this excitement, you see, be careful of this little energy that's leaking. Quando siete appunto nel corpo, sentite questa eccitazione, state attenti a questa energia che in qualche modo è come se trapelasse, come se fuoriuscisse un pochino. Yeah, see, that's the desire, that's the energy of desire, you see. Questa è l'energia del desiderio. And if there's one nanosecond of mindlessness, you're away. That's e basta un nanosecondo di inconsapevolezza che siete subito partiti. That's how quick the mind is, you see. Perché la mente è molto veloce. So if we fail to do that, then of course we shouldn't be criticizing ourselves. Ma se non riusciamo a farlo, non dobbiamo star lì a criticarci. No, we just encourage ourselves to continue. No, ci incoraggiamo a continuare. And what we begin to realize is how ingrained these habits are. Quello che cominciamo a riconoscere è quanto siano radicati queste abitudini. Sì. But that's the work in meditation. Ed è questo il lavoro della meditazione. And then there are all those things which are to do with aversion, hatred, grudges, depression, all the negative. E poi c'è tutto quello che ha a che vedere con l'avversione, il tenere l'odio, il rimorso, il broncio, come si dice in italiano, il rancore, tutte queste emozioni negative. So it's exactly the same. When you come out of that, you note it clearly, you make a decision that you don't want to indulge that. E allo stesso modo sganciatevi da questi pensieri, tornate nel corpo, sentite come risuonano nel corpo e prendete la decisione di non andare in quella direzione. And then again to come into the body, see if you can feel that mental state, that emotion. E nel corpo provate a vedere se riuscite a sentire quello stato mentale, quell'emozione. And wait for it to express itself. E aspettate che si esprima. Our emotional life only solidifies, only substantiates when you identify with it. Che la nostra vita emotiva si solidifica, diventa una sostanza praticamente, solo quando ci identifichiamo con essa. If you can feel an emotion, you'll see it's just a form of energy. Se riuscite a sentire un'emozione, scoprirete che è solo una forma di energia. And if you go into any of these emotions, all you'll find is some collection of sensations. Se riuscite a entrare in queste emozioni, tutto quello che troverete è un raccolto, un insieme di sensazioni. Ah, that's all. È tutto lì. Ah. It's like the clouds, they seem so solid when you look at them, but they're not made of anything. They can fall through them. Un po' come le nuvole, a vederle da lontano sembrano solide, però non hanno sostanza. Ah. E se le attraversate, insomma, ci cascate dentro. And we have to have the patience to bear with this, with that sort of discomfort, the pain of it. E dobbiamo avere la pazienza di stare lì e di sopportare questo disagio, no, del creato da questo stato difficile. And sometimes when an emotion is very heavy, it will want to express itself also very physically. Quando un'emozione è molto pesante, vorrà esprimersi fisicamente. Ah, so we get very tight. Quindi diventiamo molto tesi, molto contratti. Or we start crying. O cominciamo a piangere. Ah, sì. So if for instance you start crying and you feel embarrassed, then you find yourself a quiet place. Se cominciate a piangere, vi sentite in imbarazzo, beh, andate e cercatevi un posto tranquillo. And cry your eyes out. consumatevi gli occhi di lacrime. And that's that is also very healing, you see, to let the emotion come out in a very physical way. E questo è anche molto terapeutico, lasciare uscire le emozioni in modo molto fisico. But remember, if it slips into a fantasy, then it's developing itself. Però ricordatevi che se si trasforma in una fantasia, in un'immaginazione, allora non fa altro che svilupparsi. And other little mental states might arise. In a very subtle way. Potrebbero sorgere altri piccoli stati mentali in modo molto sottile. Yeah, like self-pity. Per esempio, l'autocommiserazione. Why me? Perché proprio a me? Why not you? Perché non è successo a te? So you have to be careful, eh? E lì stiamo attenti. If you stay in the body, there's no danger. Ma se riuscite a restare dentro il corpo, non c'è pericolo. The body can't lie. Perché il corpo non può mentire. The body is just pure sensation. They are true events, momentary events. Perché il corpo è fatto di pure sensazioni e sono degli eventi, si può dire, degli avvenimenti puri. Atti forse si può dire. Only the mind can lie. Solo la mente può mentire. I'll go to the fourth one because it's very similar. Allora andrò al quarto di questi ostacoli perché è molto simile. So restlessness, the mind sometimes has its own energy and you have definitely a feeling you're going mad. E quindi si tratta dell'irrequietezza e la mente sicuramente ha la sua energia e a volte si ha la sensazione di impazzire. The mind just thinks and thinks and thinks about nothing. La mente continua a pensare, a ripensare, a ripensare sul nulla. And you come back and before you know it you're back into that madness again. E uno ritorna e senza accorgersene è tornato di nuovo in quella follia. So ask yourself, from the moment you get up to the moment you sleep, does your mind ever stop? E quindi chiedetevi, ma dal momento in cui mi sveglio, al momento in cui mi addormento, la mente si ferma mai? Never. So mai. Then we come to meditation and we think it's just going to stop. E poi arriviamo alla meditazione e supponiamo che semplicemente la mente si fermi. So the mind says, I'll teach you something. La mente dice, ti faccio vedere io. So when that happens, just be very patient, just be very patient. Quindi quando succede questo, siate pazienti, molto pazienti. And remember that everything we're practicing here, we have to take into daily life. E ricordate che tutto quello che stiamo praticando qui dobbiamo poi portarlo nella nostra vita quotidiana. Ah, so we can't just, you know, sit here and suffer for 7 days and then go out and go berserk. Quindi non possiamo stare qui a soffrire 7 giorni e poi uscire e andare fuori di testa. And the next retreat is just as bad and you don't think you're progressing well. E poi il ritiro successivo è altrettanto difficile e uno ha l'impressione che non sta facendo alcun progresso. Ah, there is progress, but very little. Il progresso c'è, ma è molto piccolo. So all these things you have to take into daily life. Quindi tutte queste cose bisogna portarle nella vita quotidiana. So now when the mind is very restless like that, don't fight it. Allora, quando la mente è così irrequieta, non combattetela. Don't try and contain it. Don't even tell it to stop. E non cercate di contenerla. Non ditele nemmeno di smetterla. Just keep coming back. Just keep coming back to the breath. Continuate a tornare. Continuate a tornare al respiro. And the mind itself will just exhaust its own energy. E la mente prima o poi esaurirà la sua energia. And that is the same with the heart. E vale lo stesso per il cuore. Sì. If you imagine that the natural state of the mind and heart is silence and peacefulness. That's its natural state. Se ci pensate, lo stato naturale della mente e del cuore è il silenzio e la quiete. And what we've done, for instance, if you had a bowl of water, water always comes to its own tranquility. Per esempio, prendete una ciotola di acqua. L'acqua naturalmente prima o poi arriva al suo stato di naturale tranquillità. But then you start stirring it and boiling it and all sorts of things, and then of course the water is doing is in turbulence all the time. Allora, però immaginate di girarla con un cucchiaio o di farla bollire, allora naturalmente l'acqua è sempre in uno stato di turbolenza. So all we're doing is allowing the turbulence just to exhaust itself. Quindi tutto quello che stiamo facendo è di permettere a questa turbolenza di esaurirsi. And that's the therapy. Ed è quella la terapia. Yeah, that's the therapy. The other restlessness is of course restlessness in the body. L'altro tipo di irrequietezza è questa irrequietezza o agitazione nel corpo. So there we try and sit properly, lifting the energy up the spine, you see. E lì cerchiamo di sederci nel modo corretto, facendo andare verso l'alto l'energia lungo la colonna vertebrale. And just mentally relax what you can. E mentalmente cerchiamo di rilassare tutto quello che riusciamo. And just stay with that feeling of wanting to move, wanting to, you know, do something. E rimaniamo con questa sensazione del volerci muovere, voler fare qualcosa. And here you can actually come through the body and just try to find where the restlessness is centered most. E qui possiamo effettivamente scorrere con l'attenzione lungo il corpo e vedere dov'è che questa energia si concentra, questa irrequietezza si concentra di più. And again, just the patience, just wait until it burns itself out. E di nuovo qui è necessaria la pazienza, aspettare fino a quando non si esaurisce. In that same category, the Buddha puts guilt and shame and remorse. In questa stessa categoria, il Buddha allora mette il senso di colpa, la vergogna, il rimorso. So with these things, if there is something out there that you can do to undermine them, then you must do it. Allora, rispetto a queste cose, se c'è qualcosa là fuori che voi potete fare per in qualche modo ridurre questi stati, allora fatelo. So for instance, if while you're sitting here you suddenly remember that you've said something sharp to a colleague, per esempio, se mentre siete seduti qua vi viene in mente di aver detto qualcosa di tagliente, si può dire in italiano, a un collega. And it's disturbing your heart, you see. Quindi questa cosa vi sta disturbando a livello del cuore. So make a decision that when you leave you'll go and apologize. Allora prendete la decisione che quando lascerete il ritiro andrete dal collega e gli chiederete scusa. But if the person you've harmed has gone away, you can't contact them, or has died. Ma se la persona a cui avete fatto del male non c'è più, è andato via oppure è morta. Ah. In which case you say to yourself, I can't do anything about it. Allora in questo caso dite a voi stessi, beh, io non posso più farci nulla. Ah. If the possibility arises, I will. Ma se la possibilità sorge, ma allora si presenta, allora lo farò. Mm. So this is an attitude which won't make the guilt get worse. E quindi questo è un atteggiamento che fa sì che il senso di colpa non peggiori. Mm. And then you just have to sit with it. E poi semplicemente dovete sedervi e starci assieme. Yeah. With shame can be very, very painful. Invece con la vergogna può essere molto dolorosa. Ah, so with that again you just sit with it, you see. Anche lì non si può fare altro che sederci assieme. The mind will always want to justify itself. La mente vorrà sempre giustificarsi. It'll always want to defeat the enemy that has caused me to feel shame. Vorrà sempre sconfiggere il nemico che ha fatto sì che io sentissi questa vergogna. I'll want to hate myself for doing something which has lowered my esteem in other people's eyes. Vorrò sempre punirmi per qualcosa che ho fatto che ha provocato questo abbassamento di stima di me agli occhi degli altri. So in that sort of case, you see, one has to again bear with the consequence. Anche lì, in questo caso, uno deve stare con le conseguenze delle proprie azioni. And then, as when that feeling begins to die away a little, e quando comincia a esaurirsi questa sensazione, that's when you turn your sense of forgiveness towards yourself. Allora uno può rivolgere a se stesso un senso di perdono. Even if you don't feel forgiven, you keep saying it. Anche se uno non si sente di perdonarsi, però continua a farlo, continua a dirselo. Eventually you'll see it does affect you. Prima o poi vedrete che avrà un effetto su di voi. And of course a clear determination not to behave like that again, you see. E poi, ovviamente questo cioè è necessario anche un chiaro impegno, un proposito a non ripetere l'errore, a non comportarsi più in quel modo. The Buddha actually calls shame and guilt the guardians of society. Il Buddha effettivamente chiama la vergogna e il senso di colpa i due guardiani della società. People who have no shame will do anything, eh? Perché le persone che non hanno questo senso di vergogna faranno qualsiasi cosa. And if there's no, if there is no way of, if there's no consequence to doing terrible things, nobody's going to stop doing them, eh? E se non ci fosse una conseguenza, no, legata al fare cose sbagliate, le persone continuerebbero a farle. So that's why we have the law, that's why we have sentences given by judges and so on. Per questo abbiamo le leggi, abbiamo le sentenze dei tribunali, eccetera. So again, all these things you have to let them express themselves. That's the really important understanding. Quindi tutte queste cose dovete lasciare che si esprimano. Questa è la comprensione fondamentale. When it comes to dullness and lethargy, e arriviamo ad un altro ostacolo, chiamato dullness è la mente torbida, si dice, no? È il torpore, in italiano si dice pigrizia e torpore. In Italian it's translated more as laziness, but maybe it's not so appropriate. No. Well, it is a form of laziness, yeah. In italiano di solito si traduce con pigrizia e torpore, però. In certo senso è una forma di pigrizia. Remember that we use sleep in order to escape things. Ricordate che noi utilizziamo il sonno per poter scappare dalle cose, fuggire. When we feel tired, when we feel disappointed, when we feel a bit depressed, then we just lie out on the sofa. Quando ci sentiamo stanchi o depressi o delusi, cosa facciamo? Ci sdraiamo sul divano. Because there's some rest, there's some escape in oblivion. perché c'è una forma di riposo, c'è una fuga nell'oblio. Ah, where in oblivion there's no suffering. Nell'oblio non c'è sofferenza. The unfortunate thing is we keep waking up. La cosa sfortunata è che continuiamo a svegliarci. But we've already laid a level of bad energy. Però abbiamo già, come dire, abbiamo già posto, diciamo, uno strato di cattiva energia. Ah, and sometimes we just like to sleep, you know, on the beach, Sunday morning. E a volte proprio ci piace dormire sulla spiaggia o la domenica mattina. A lovely subliminal state, neither asleep nor awake. E poi c'è questo stato subliminale bellissimo, quando uno è né addormentato né sveglio. So this is also another layer of energy. Anche questo è un certo livello, uno strato di energia. All the hindrances we've talked about is the energy of the whirlwind. All the hindrances we've talked about is the energy of the whirlwind. Ah sì, quindi tutte le energie di cui abbiamo parlato fino adesso è come se fossero l'energia di un mulinello. But stillness and lethargy is the whirl, is the energy of the whirlpool. Allora invece questa energia, questa della sonnolenza, il torpore, è l'energia, è sempre un mulinello che va verso il basso. Ah, è più un tornado, allora. Sì, yeah, ecco, tornado. Un tornado. Sì. So, un mulinello verso il basso, invece. Mulinello. So, nothing is achieved in oblivion. Quindi non si può raggiungere nulla, non si può ottenere nulla nell'oblio. So, whenever we feel like that, the best technique that I know is to keep the attention moving. Quindi quando succedono queste cose, la tecnica migliore che conosco io è quello di continuare a spostare l'attenzione. Inside the head, inside the body, just keep it moving. Feeling, feeling, feeling. Dentro il corpo, continuate a farla girare, no? Sentire, sentire, sentire. But of course you can also make more effort in the sitting. Potete anche mettere un maggior sforzo nella seduta. You can open your eyes just a little at the lighting. Potete aprire un po' gli occhi, far entrare la luce. You can even look directly at the light. Potete anche guardare direttamente a una fonte di luce. But keep the attention inward. Però l'attenzione deve essere sempre rivolta verso l'interno. And finally you can stand up. E poi potete anche stare in piedi. Yeah. And if you feel you're gonna collapse, then go for a walk. Se sentite che state per crollare, beh, andate a farvi una passeggiata. But under all means, refuse to be annihilated. Però assolutamente rifiutate di essere annichiliti, essere sopraffatti. So finally we have doubt. Alla fine, infine, l'ultimo ostacolo è il dubbio. This is what is called skeptical doubt. Questo però lo chiamiamo un dubbio scettico. Which is not the same as the philosopher's sense of doubt or the scientist's sense of doubt. Perché non è lo stesso dubbio che ha il filosofo, lo scienziato. Or sense of wonder. Che è questo senso del meravigliarsi, sì, o del domandarsi delle cose. Remember, the Buddha doesn't ask us to believe a single word he said. Ricordate che il Buddha non ci chiede di credere a neanche una parola di quello che dice. For him, a belief would be an obstacle to insight. Per lui questa credenza, un credere cieco, sarebbe un ostacolo verso la conoscenza, verso l'insight. And the reason is that a belief manifests as a concept. E questo è perché una credenza si manifesta come un concetto. And therefore the meditator seeks to make the concept real. E true. Quindi il meditante cosa fa? Cerca di rendere questo concetto reale, vero. And therefore he's only feeding his own ideas. E quindi non fa altro che nutrire le proprie idee. But skeptical doubt is what stops us from doing the practice. Ma il dubbio scettico è quello che ci frena, cioè ci impedisce di continuare con la nostra pratica. It comes from a fear of failure, for instance. viene da una paura, un timore, il timore di fallire, per esempio. Perhaps a lack of confidence, self-confidence. Forse una mancanza di fiducia in se stessi. And the antidote, of course, is a leap of faith. L'antidoto è naturalmente un salto di fede. An act of confidence. Un atto di fede. Più di fiducia. Fiducia. And not to look at life as success and failure. E quindi non vedere la vita come fatta di successi e fallimenti. But more in the sense of trial, effort, and error. Ma più in termini di tentativi, di sforzi e di errori. And that the errors are lessons. E vedere gli errori come delle lezioni. You see. And therefore there's no need to feel failed or a failure. E quindi non c'è bisogno di sentirsi falliti o come se le cose fossero un fallimento. This belongs to the sense of self, to the sense of pride. Tutto questo appartiene al senso del sé, all'orgoglio, alla presunzione. I remember that in ordinary daily life, skeptical doubt can really cripple a person's life. E nella vita quotidiana questo dubbio scettico può rovinare, diciamo, può rovinare fortemente la vita di una persona. Danneggiare. Yes, you apply for a job but you don't know whether you can or not. Per esempio, fate una domanda di lavoro e poi cominciate a chiedere posso farlo, non posso farlo, ci riuscirò, non ci riuscirò. And then you don't apply and so you lose the possibility. E allora poi magari non fate la domanda e perdete quella possibilità. You find someone whom you feel you can have a really lovely relationship with, and maybe yes, maybe no, maybe yes, maybe no, and the person goes away. Trovate una persona con la quale potreste avere una meravigliosa relazione e vi domandate forse sì, forse no, forse sì, e la persona intanto se n'è andata. They get fed up. Perché si stufa. So remember, if you find yourself in a doubt which is stopping you making decisions, then sometimes you have to make that little leap of faith, you know, have confidence. Quando vi trovate in questa situazione in cui un dubbio vi blocca, vi frena, vi impedisce di prendere una decisione, ecco che lì è necessario fare questo salto di fiducia per prendere l'opportunità. So within these five hindrances the Buddha covers all our negativity. Quindi con questi cinque gruppi, diciamo, questo gruppo di cinque ostacoli, il Buddha include tutte le nostre negatività, comprende le nostre negatività. Very simply though, whenever the mind wanders, you note what it's doing. Ma molto semplicemente, ogni volta che la mente divaga, notate quello che sta facendo. And then you come into the body. E tornate nel corpo. And you let the mental state express itself physically. E lasciate che lo stato mentale si esprima fisicamente. Ecco. See, once you've understood that, all my talking has been a waste of time. Una volta che avete compreso questo, tutte le mie parole, il mio discorso è stata una perdita di tempo. So remember, we have these ways of treating with all those things that we desire. Quindi abbiamo questo modo di gestire tutte quelle cose che desideriamo. All those things that we don't want and fear. Tutte quelle cose che non vogliamo e di cui abbiamo paura. How to deal with dullness and lethargy. Sappiamo come gestire la pigrizia e il torpore. With restlessness and guilt and shame. L'irrequietezza, senso di colpa, la vergogna. And this skeptical doubt. E poi questo dubbio scettico. And remember that you can reflect on what you're doing at any time during the sitting. potete riflettere su quello che state facendo in qualsiasi momento durante la seduta. So if you're sitting here and you just feel a bit lost, you see, then just stop and just recollect, think about it. Se siete seduti qua, vi sentite un po' confusi, un po' persi, fermatevi e fate una considerazione, una riflessione. And then begin again. E poi ricominciate. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. May you overcome the armies of Mara, the evil one. Che voi possiate vincere sull'esercito di Mara, il malvagio. And attain to the great purity of heart of the Buddha. E possiate raggiungere la purezza del cuore del Buddha. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. So, how are we doing with the timetable? 19. Ah, that's okay. So we can...